respiro. Ben ritrovati da Laura Bettini. Oggi parliamo di due grandi incontri di questi giorni. Uno si è appena tenuto a Milano, l'altro si terrà nei prossimi giorni, almeno per chi ci ascolta la domenica e non nella replica del sabato. Dicevamo, si terrà nei prossimi giorni a Ravenna, dall'8 al 10 di ottobre. Cominciamo da Milano. Quello che si è già svolto è l'ottavo Energy Summit, organizzato dal Sole 24 Ore. È un momento di incontro e discussione. Quest'anno in particolare ci si è soffermati sul mercato italiano ed europeo dell'energia, comprendendo con questo le direttive comunitarie, le infrastrutture esistenti, quelle in via di realizzazione ed anche le prospettive. Uno sguardo sul futuro italiano nel nucleare, nel gas, nelle fonti rinnovabili ed anche nell'efficienza energetica. Ed è proprio su questo punto che ci soffermiamo qui a Respiro. Abbiamo chiesto a uno dei relatori dell'Energy Summit di intervenire, di stare con noi e di parlarci appunto di risparmio energetico. Il nostro ospite è Paolo Perino, amministratore delegato e direttore generale di BTCino, che qui ci dà in questa intervista qualche consiglio per rendere più intelligente la nostra casa, a partire dalla definizione di intelligenza di una casa. Casa intelligente, prima di tutto, deve essere una casa al servizio della persona che l'abita, quindi qualcosa che facilita la vita, la rende più confortevole, fa fare qualche economia magari, ma che soprattutto presenti qualche cosa di facile da usare, non qualcosa di impegnativo, qualcosa che è lì solo di figura ma poi in realtà non si usa mai. Il fatto oggi di poter telecomandare la luce o telecomandare l'apertura e la chiusura delle tapparelle stando comodamente seduti sul divano piuttosto che dal letto anziché alzarsi al mattino può sembrare qualcosa di superfluo, ma un po' come i vetri elettrici delle auto 20 anni fa. Così il fatto di poter uscire di casa e con un semplice gesto del dito spegnere tutte le luci, chiudere le tapparelle e inserire l'allarme e magari anche regolare una temperatura più bassa in modo da fare un risparmio energetico diventa qualcosa di estremamente fruibile, facile da eseguire e che porta effettivamente un beneficio che viceversa non ci sarebbe stato. Voi avete un'idea di quanti italiani cominciano ad avere interesse a chiedere, a desiderare questo tipo di servizi? Ma parliamo ormai di parecchie migliaia, perché noi sono ormai parecchie migliaia di case all'anno che equipaggiamo con questi dispositivi, quindi non è più un discorso limitato a pochi, ma sta diventando qualcosa di abbastanza diffuso. Ci sono alcune iniziative immobiliari che prevedono questi impianti, diciamo come alcuni come optional, ma alcuni già come dispositivo equipaggiamento di base dell'abitazione. Gli interventi che vi sono richiesti da chi già la casa ce l'ha, quindi non è di quelle che nascono con questi dispositivi, è soprattutto per il risparmio o per le comodità? Ma nella casa io direi che prevale la comodità. Prevale la comodità e la sicurezza, perché una delle altre cose che è importante è l'allarme, l'antifurto, piuttosto che i sistemi antipanico per le persone anziane, quindi il fatto di poter lanciare un allarme in caso di problemi di salute e quant'altro. Però anche il risparmio energetico comincia a diventare significativo. Però onestamente più è più la comodità che risparmio oggi, quello che è la molla per l'adozione dei sistemi domotici nella casa. Diverso il discorso per gli edifici. Infatti qui la volevo portare, sugli edifici, gli uffici per esempio. Ecco, negli uffici lì il discorso è molto più centrato sul risparmio, perché chi fa un investimento di questo tipo negli uffici lo fa su una base di un ritorno economico. Quindi ho citato prima nel mio intervento due casi, uno è il caso dell'ufficio dove un investimento può avere un ritorno nel giro di 2 o 3 anni. E facendo che tipo di interventi? Intervento sostanzialmente sugli impianti di illuminazione, ecco, sostanzialmente sugli impianti di illuminazione con delle centralizzazioni, con dei controlli automatici, con delle dimerizzazioni, questo può consentire un risparmio che consente un ritorno all'investimento abbastanza rapido, insomma un paio d'anni, due o tre anni a seconda del tipo di uffici, di come è organizzato l'ufficio. Ci sono dei ritorni ancora più rapidi in altri tipi di ambienti, un supermercato per esempio può avere un ritorno molto più veloce. Certo, con i consumi che hanno sicuramente. Siete più spesso cercati o dovete cercare voi per questo tipo di interventi? Cioè da un punto di vista, per esempio, gli uffici, gli va fatta una proposta oppure adesso c'è una sensibilità per cui si fanno avanti, insomma? Ma comincia a esserci una sensibilità, anche perché il problema del consumo comincia ad essere importante, il risparmio energetico. Diciamo che c'è un aspetto economico e poi c'è un aspetto anche di sensibilizzazione verso l'impatto ambientale che comincia a essere molto, molto significativo. Negli ultimi due o tre anni abbiamo visto un cambiamento di tendenza importante. L'ultima domanda, diamo un suggerimento a chi ci ascolta: quale intervento può fare una persona a casa sua, non parliamo di uffici, per poter tagliare un po' sulle spese? Ma un intervento che si può fare e che molti fanno è quello di adottare per esempio dei dispositivi di controllo automatico della luce nelle zone dove di passaggio, per esempio i corridoi, per esempio le scale o le cantine. Questo è un intervento piuttosto semplice. Che sostituiscono quelle a tempo, per esempio, che ci sono adesso. Sostituiscono quelle a tempo che ormai sono superate come tecnologia, e quindi questo è qualcosa di molto, diciamo, di semplice, che si può fare rapidamente, senza grossi interventi, anzi direi senza interventi invasivi, e può portare un risparmio significativo. Direi che ci sono altri paesi in Europa dove questi sistemi sono molto più adottati che in Italia. Dove è richiesto di adottarli oppure è una scelta? Ma è una scelta, è un'abitudine che è stata, diciamo, di adozione, è avvenuta un po' prima che dell'Italia, ecco, forse qui siamo arrivati dopo. E adesso l'altro appuntamento della settimana che vogliamo segnalarvi: Ravenna 2008, rifiuti, acqua ed energia. È un'iniziativa, una serie di incontri in programma nella città romagnola dall'8 al 10 di ottobre, appunto, come dicevamo in apertura. L'organizzatore è Labelab, la rete di portali ambientali che è nata a Bologna nel 2001. Il nostro ospite per parlarci di Ravenna 2008 è Giovanni Montresori, mente di Labelab e organizzatore dell'evento. La manifestazione nasce in accordo con tutte le istituzioni locali della provincia di Ravenna, quindi l'agenzia d'ambito, il comune, la regione e la provincia, ed è un primo tentativo di una 3 giorni completamente organizzata all'interno del centro storico di Ravenna, quindi una zona pedonale molto estesa. Verranno utilizzate tutte le sale a disposizione nel comune di Ravenna, quindi 12 sale, il teatro, il museo e poi la piazza, che rappresenta il vero punto centrale informativo di tutta la manifestazione. Quindi a Ravenna, proprio per un interesse specifico dimostrato dalla città rispetto a questi temi. Esatto. Facciamo qualche esempio di queste tecnologie che si potranno vedere a Ravenna nei prossimi giorni. Secondo noi è molto interessante, per esempio, nel settore delle energie rinnovabili, nuovi impianti eolici ad asse verticale sviluppati per deboli venti e per un'utenza, non la grande utenza, ma anche un'utenza domestica. Quindi sono degli impianti molto versatili che possono essere utilizzati fino a potenze di picco di 3-6 kW di potenza, quindi un prodotto indicato anche per l'eolico adatto a tutte le famiglie. E questo è un progetto sperimentale lanciato in Emilia Romagna che verrà presentato in anteprima qua nella Piazza del Popolo a Ravenna. Per il fotovoltaico presentiamo il progetto Mille Soli, che è un progetto da anni utilizzato in Canada, quindi con notevoli, diciamo, con notevoli applicazioni, e importato in Italia soltanto da pochi mesi da una società di Milano, che di fatto ha il vantaggio, si chiama Mille Soli perché vengono utilizzate delle lamine di alluminio per concentrare i raggi solari su delle piccole celle fotovoltaiche ad altissime prestazioni. Quindi, anziché avere delle grandi superfici di pannelli fotovoltaici, noi abbiamo questi specchi di alluminio che fanno convergere un segnale più potente a un pannello fotovoltaico che è molto più piccolo. Quindi questo significa maggiori economie, maggiore flessibilità dell'impianto, perché è chiaro che quando la tecnologia del fotovoltaico sarà diciamo, ci sarà un upgrade, cioè un miglioramento della tecnologia, in quel caso anziché sostituire tutto l'impianto si sostituisce soltanto il cuore principale. Certo. Poi nel settore anche dei rifiuti presentiamo anche lì delle, diciamo, delle chicche, cioè delle tecnologie molto innovative che stanno sperimentando in questi mesi a livello nazionale. Leggo cassonetto intelligente, che cos'è? In questi cassonetti può essere montata un'applicazione, un dispositivo, è una sorta di cancelletto che viene aperto soltanto al riconoscimento dell'utente attraverso una chiave personalizzata e quindi si permette la tracciabilità di chi conferisce. Questo sistema ha anche una valenza educativa, perché di fronte al riconoscimento dell'utente davanti al cassonetto, a quel punto nascono dei meccanismi virtuosi, e questo viene sperimentato in diverse realtà italiane con ottimi risultati, quindi con percentuali di raccolta differenziata superiore al 65%, crea un meccanismo virtuoso, perché il cittadino a quel punto preferisce conferire le frazioni differenziate nei contenitori dedicati, quindi carta, vetro, plastica, organico. Quindi metto la cosa giusta al posto giusto, anche perché si sa che io posso essere rintracciato in qualche modo. Esatto, poi chiaramente questo sistema può essere personalizzato, perché io posso dire, io faccio pagare il cittadino in funzione anche di quanto poco rifiuto indifferenziato mi produce. Queste sono tutte delle varianti che possono essere personalizzate nelle realtà specifiche, anche in funzione del grado di maturazione che hanno questi servizi nel territorio. In chiusura vogliamo ringraziare gli ascoltatori che ci scrivono a respiro@radio24.it. Uno di loro ci segnala il sito internet www.tiriciclo.it. È un sito che aiuta a scoprire quali comuni d'Italia sono pronti a raccogliere e quindi riciclare il Tetra Pak di cui ci siamo occupati nella scorsa puntata di Respiro. Un altro ascoltatore invece ci scrive più che altro per chiedere di chi ci si può affidare oggigiorno quando si parla di temi ambientali. Ebbene, questa stessa domanda noi la vogliamo girare a voi che ci ascoltate. Di chi vi fidate? Di chi vi fidereste? Di un politico, di un tecnico, di uno scienziato? Insomma, da chi comprereste un'auto ecologica? Per scriverci, respiro@radio24.it. L'appuntamento è per la prossima settimana, alla stessa ora, e a tutti un buon ascolto da Laura Bettini.